3. L'editto del direttore, in forma di lettera alla direttrice, diceva così: che per il giorno di domenica 8 aprile erano indette le elezioni generali politiche e per il giorno di domenica 15 aprile le elezioni di ballottaggio. Che in quelle due settimane, ma specialmente sabato, domenica e lunedì, vi sarebbe stato un grandissimo affollamento di telegrammi su tutte le linee, importanti e non importanti. Che quindi si rivolgeva allo zelo delle ausiliarie per sapere se volessero prestarsi a un servizio straordinario di 2, 3, 4 ore, oltre le 7 del servizio ordinario. Che tutte quelle che volessero dare questa prova di amore al lavoro si firmassero sotto quella carta, che si lasciava per questo intera libertà non volendo obbligare nessuno. Questo editto era stato letto in forma solenne alle 2:30 innanzi tutte le ausiliarie riunite, presenti direttrice e vice direttrice. Le fanciulle ascoltavano, trassognate, con la sensazione di un grosso colpo nella testa, incapaci di decidersi. Vi era tempo 2 giorni. E il fermento di ribellione nacque subito, si sviluppò in ufficio, nella strada, nelle case. No, non volevano prestare servizio straordinario, era un'oppressione, un martirio anche quell'ordinario, farne dell'altro, niente affatto. Perché? Per chi? Le trattavano come tante bestie da soma per quei 3 miserabili franchi al giorno, scemati dalle tasse, dalle multe, dai giorni di malattia. E invece se avevano quasi tutte il diploma di grado superiore e al telegrafo prestavano servizio come uomini, come impiegati di seconda classe che avevano 200 lire al mese. Farsi un merito? Ma che? Ma che? Chi le avrebbe considerate? Non erano nominate né con decreto regio né con decreto ministeriale, un semplice decreto del direttore generale, revocabile da un momento all'altro. Se le telegrafiste facevano cattiva prova, le potevano rimandare a casa tutte senza che avessero diritto di lagnarsi. L'avvenire! Quale avvenire? Erano fuori pianta, non avevano da aspettare pensione. Anzi, diceva il regolamento che a 40 anni il governo le licenziava senz'altro. Cioè, se avevano la disgrazia di restare telegrafiste sino a 40 anni, il governo le metteva sulla strada, vecchie, stupidite, senza sapere far altro, consumate nella salute senza un soldo. Tutte quelle lagnanze sorde che correvano negli animi giovanili, incapaci di sopportare il giogo burocratico, salivano alle labbra amarissime e tentavano lo spirito delle più serene. Tutti i piccoli torti, tutte le piccole ingiustizie, tutte le piccole sofferenze prendevano voce, si rinfocolavano nel ricordo, gli spiriti depressi si sollevavano in quel flusso di parole, in quelle frasi, che venivano ripetute 20 volte in quelle doglianze monotone come un ritornello. In casa di Caterina Borrelli discutevano Annina Pescara, Adelina Marcò, Maria Morra, Sofia Magliano. In casa di Olimpia Faraone complottavano Peppina Sanna, Peppina De Notaris, Ida Torelli. Le amiche si davano convegno per mettersi d'accordo. Si litigava dappertutto fra quelle feroci e quelle miti, fra le ribelli aggressive che consigliavano di non andarci punto in ufficio per lasciare i superiori nell'imbarazzo e le ribelli passive che intendevano solo prestare il servizio ordinario. I parenti, i fidanzati, gli amici si interessavano a quella grande questione, parteggiavano chi per una ribellione intera, chi per un contegno indifferente. Nessuno consigliava il servizio straordinario. Le ausiliarie si sentivano pregate dalla direzione, si sentivano le più forti, volevano mostrare di avere carattere. Ma quando fu il giorno e l'ora della firma, sotto quel grande foglio bianco, avvenne un curioso fenomeno psicologico, tutta una rivoluzione in quegli spiriti. E in processione, silenziose, con un'aria decisa e un contegno fiero, ognuna andò a scrivere qualche cosa. La prima, Rachele Levi, una israelita piccola, bruttissima, sempre piena di gioielli, scrisse che avrebbe ogni giorno prestato 1 ora di più di servizio. Grazia Casale, la bruna grassotta, tutta profumata di muschio, scrisse che avrebbe prestato servizio per sé e per sua sorella Serafina, che era inferma. Adelina Marcò sarebbe rimasta di giorno sino alle 5 e ogni sera sino a mezzanotte. Emma Torelli farebbe 5 ore di servizio straordinario ogni giorno. Ida Torelli, come sua sorella. Peppina De Notari sarebbe venuta alle 7 e andata via a mezzogiorno, ritornata alle 4 e andata via a mezzanotte. Peppina Sanna farebbe il servizio completo dalle 7 del mattino alle 9 di sera, chiedeva solo 2 ore per andare a pranzo. Maria e Pasqualina Morra sarebbero venute dalle 7 del mattino a mezzanotte. Chiedevano 2 ore per andare a pranzo. E così tutte le altre di ambedue i turni, senza eccezioni, salirono di offerta in offerta sino a che l'ultima, Caterina Borrelli, scrisse col suo grosso carattere storto questa dedizione completa: «Sono a disposizione della direzione». Ma sotto queste ultime parole fu attaccato un pezzettino di lettera. Maria Vitale scriveva da casa sua, dal letto, dove la bronchite l'aveva gettata per la terza volta, che sentendosi meglio avrebbe fatto tutto il possibile per venire a fare il suo dovere. Che giornata fu quella domenica 8 aprile. Alla mattina piovvero come fitta gragnuola telegrammi di candidati ai grandi elettori, ai sindaci e ai segretari comunali, raccomandandosi. Le ultime ferventi pie raccomandazioni. Telegrammi umili, ardenti, pieni di concessioni precipitose e di promesse disperate. Poi una circolare politica del Ministero dell'Interno. L'ultima a tutti i prefetti e sottoprefetti del regno, in cifra 472 gruppi di numeri, una fatica immensa, con la paura continua di un errore di cifra che avrebbe guastato il senso del dispaccio, e per ogni cifra sbagliata l'impiegato paga 6 lire di multa. Ma l'accesso di febbre telegrafica fu a mezzogiorno. Da tutti i comunelli, da tutti i grossi comuni, da tutti i capoluoghi, da tutte le sottoprefetture e prefetture arrivavano i risultati delle frazioni al ministro, alla Stefani, ai giornali, ai candidati, agli amici dei candidati, ai capopartiti, alle associazioni politiche. E subito dopo telegrammi privati di commenti, di sfiducia, di incoraggiamento, di speranze moribonde, di trionfo, di congratulazione, di aspettazione, di bestemmie, di amarezza, di scetticismo. Alle 3 del pomeriggio l'accesso febbrile divenne furioso. Nella sezione maschile erano attivati 4 fili con Roma, 2 più dell'ordinario, e il ritardo era di 3 ore. Con Firenze, con Milano, con Torino, vi era un ingombro tale di dispacci che si contavano a serie di 10. Tutte le macchine, Morse, Siemens, Hughes, doppia Hughes, Steel, erano in movimento. I 2 capoturni erano presenti, andando e venendo come sonnambuli col sigaro spento e un fascio di telegrammi in mano. La porta di comunicazione con la sezione femminile era semiaperta, caso nuovissimo, ma nessuno si voltava. Nella sezione femminile erano presenti tutte le ausiliarie, ognuna una macchina. La direttrice andava e veniva, la vice direttrice, piccolina, coi capelli corti, una testolina simpatica di garzoncello svelto, correva da una macchina all'altra, riordinando dispacci, regolando i sistemi di orologeria, dando l'inchiostro, lesta come uno scoiattolo, le mani pronte, l'occhio vivo, la parola alta e breve. I telegrammi nascevano, sgorgavano, spuntavano da tutte le linee, su tutte il ritardo era di 3 ore. I telegrammi da trasmettere si ammonticchiavano, formavano fasci, manipoli, cumuli, mentre se ne trasmetteva uno ne arrivavano 5 da trasmettere. Mentre si finiva di trasmettere una serie di 10 ne restavano fermi 52. Le ausiliarie erano prese dalla febbre, che ogni ora saliva di grado. Alta, seduta sul seggiolone col vestito coperto da un grande grembiale nero, Adelina Marcò lavorava alacremente alla macchina Hughes con Genova, trasmettendo con una lestezza di dita di pianista emerita, con uno scricchiolio rapidissimo di tutto quell'ingranaggio, dando la corda al congegno con certi colpi potenti del piede diritto, i capelli rialzati sulla testa per non aver fastidio sulla nuca, le maniche rimboccate per poter trasmettere più facilmente. Accanto a lei, Giulietta Scarano aveva appena appena il tempo di registrare i dispacci. Maria Morra sedeva sull'alto seggiolone, anche a lei alla linea di Bari, un ciuffo di capelli le scendeva sopra un occhio. Aveva una macchia d'inchiostro azzurro sul mento, il goletto sbottonato perché si sentiva soffocare, 2 macchie rosse sui pomelli. Ogni tanto Emma Torelli le dava il cambio per farla riposare un po', registrando i dispacci, classificandoli, facendo tutto il servizio di segreteria. Fra le coppie di hughiste, ambedue ugualmente responsabili della linea, vi erano questi brevi dialoghi senza lasciar di trasmettere e di scrivere. Quanti ce ne sono ancora? 43. E che ritardo? 2 ore e 50. Madonna Santissima! Sulla linea poi, col corrispondente, quanti ne avete? 64 era la risposta recisa. Esse impallidivano. La moltiplicazione dei telegrammi era miracolosa. Tutti telegrafavano ora. Si era dovuto attivare un quinto filo con Roma e, onore insperato, lo aveva la sezione femminile che sino allora non aveva mai corrisposto con la capitale. A quel filo, macchina morse, si riceveva soltanto. Vi era stata messa quella che riceveva meglio, la Borrelli, con le lenti fortemente piantate sul naso, una gamba incavalcata sull'altra come un uomo, con un movimento nervoso della bocca, senza mai levar la testa, senza muoversi, senza voltarsi, e la riceveva sempre, indovinando le parole dalla prima sillaba, finendo di scrivere il telegramma prima che il corrispondente finisse di trasmetterlo. Dopo averne ricevuti 15 o 20, ella lo interrogava. «Ne avete molti ancora?» «Moltissimi. Quanti saranno?» «Una settantina. Date». E ricominciava a ricevere, con la bocca arida, le dita sporche di inchiostro sino alla prima falange. Poi, presa da una specie di delirio telegrafico, diceva al corrispondente «Trasmettete più presto, io so ricevere». E quello affrettava la trasmissione, rapidissima, di una velocità quasi irraggiungibile, e quella lo aizzava, lo spronava come il fantino al cavallo da corsa, dicendogli ogni tanto «Più presto, più presto, più presto». Sulla linea Napoli-Salerno lo spettacolo era diversamente meraviglioso. Il corrispondente di Salerno era il migliore impiegato di quell'ufficio e corrispondeva con Peppina Sanna, una delle più forti, se non la più forte, della sezione femminile. La mattina si erano scambiato una sfida gioconda da campioni valorosi, si erano salutati come due schermitori di prima forza e il torneo era cominciato. Alternavano trasmissione e ricevimento a partite uguali di un dispaccio. Appena il corrispondente dava la firma del suo dispaccio, Peppina Sanna aveva la mano sul tasto per dare il proprio. Era un alternarsi di rumori. Ora il tasto di Napoli, rapidissimo, saltellante, sotto la ferma mano di Peppina. Ora il coltellino che riceveva la trasmissione di Salerno, che ballava, ballava con un ticchettio infernale. «Si eccitavano a vicenda. Che tartaruga siete!» esclamava Peppina Sanna. «Ah, sono tartaruga!» gridava il corrispondente e correva, correva come un indiavolato per vedere di sbigottirla. «Credete di spaventarmi?» esclamava lei e precipitava talmente la propria trasmissione che non pareva possibile egli arrivasse in tempo a riceverla. «Svelte, signorine, svelte!» strillava la vice direttrice. «Abbiamo un grave ritardo!» mormorava la direttrice girando attorno ai tavoli. Anche il direttore andava e veniva, ma muto, serio, senza fare osservazioni, passeggiando come un leone nella gabbia. Non diceva niente, vedeva tutto. La faccia pallida di Annina Pescara, che sedeva da 10 ore alla linea di Reggio e crollava ogni tanto il capo come se non potesse reggerlo. La pazienza angelica di Clemenza Achard, che combatteva con 7 piccoli uffici sulla sua linea, che tutti avevano telegrammi e tutti volevano avere la precedenza. Il tormento di Ida Torelli, che si dannava la linea Napoli-Ancona-Bologna e l'aveva 60 dispacci. Ancona e Bologna perdevano tempo a litigare fra loro. La perizia di Peppina De Notaris, che arrivava a intuire più che a leggere, la trasmissione del corrispondente di Catanzaro. Una bestia che non sapeva trasmettere. Egli dava le volte come il leone, ma non diceva niente. Le ausiliarie erano tutte svelte, tutte intelligenti quel giorno. Quell'ambiente, quell'eccitamento avevano sviluppato in loro qualità nuovissime. Si soccorrevano con amore, scambievolmente, d'inchiostro, di penne, di carta. Le più disadatte alla corrispondenza registravano, mettevano l'ora ai dispacci, contavano le parole, mettevano i rotoli di carta, raccoglievano i telegrammi trasmessi. Non vi erano più distinzioni di turno, di antipatie, di valori, si assistevano fraternamente, arse dal desiderio di far bene. Alle 8 della sera di quella domenica, le ausiliarie telegrafiche, tutte presenti, senza aver fatto colazione, senza aver pranzato, seguitavano a trasmettere a Hughes, a Morse, seguitavano a ricevere fra un fascio di telegrammi già dati e un fascio da darsi, con gli occhi lustri, le trecce disfatte, la mano nervosa che forte stringeva il tasto e la voce velata che chiedeva ogni tanto «Vi ha ingombro ancora?» 4. Dopo un ottobre dolcissimo, con un sole tiepido di primavera e una grande fioritura di rose, il 1° novembre, giorno dei santi, un bianco strato di nuvole aveva coperto il cielo di Napoli e nel pomeriggio era venuta la fine pioggia autunnale, la pioggia che bagna sempre il pietoso pellegrinaggio della gente che va al Camposanto il giorno dei morti. E per tutta la prima settimana di novembre piove sempre, con qualche intervallo in cui la pioggia smetteva come per stanchezza, ma insensibilmente dopo mezz'ora le goccioline ricominciavano a cadere, lente, rade, poi si infittivano venendo giù per 2 o 3 ore, con una monotonia di rumore che addormentava. Nell'anticamera della sezione femminile, gli ombrelli aperti, lucidi d'acqua, gocciolavano dalle punte delle balene appoggiate al suolo. Sulla spalliera del divano di tela rossa e su qualche sedia si asciugavano certe mantelline bagnate, certi scialletti che la pioggia faceva stingere, fin anche sopra una macchina Hughes che serviva per l'istruzione, era disteso un waterproof nerognolo chiazzato da larghe macchie nere di acqua. Le più prudenti, appena entrate, si scambiavano gli stivaletti, mettendone un paio di vecchi che conservavano nell'armadietto. Ma alla fine dell'orario era difficile calzare nuovamente quelli che l'umidità aveva fatto restringere. Da che erano venute le piogge, la colazione di quelle che potevano spendere non era più composta della granita di limone che si risolveva in un liquido acidulo e verdastro, in cui si intingeva un panino da un soldo. Col novembre si prendeva il cioccolatte, una bevanda nerastra, pesante, caldissima, che bruciava la lingua e lo stomaco. Gabriella Costa, la piccola lavalier, detta così per il suo bianco volto ovale e malinconico, per i riccioli biondi della fronte e della tempia, diceva, lamentandosi dolcemente, che in quel cioccolatte vi era del mattone pesto. Questo incidente delle colazioni era un eterno soggetto di lite fra Gaetanina Galante, la inserviente e le ausiliarie. Esse non pagavano giorno per giorno, facevano conto, mangiavano biscotti e paste, e alla fine del mese, quando essa presentava il conto di 10-15 lire, financo, esse torcevano il muso. Le più educate tacevano, le più pettegole dicevano che vi doveva essere un errore certamente, non avevano mangiato mai tutta quella roba. Ma con Gaetanina Galante era difficile di averla vinta, tanto era insolente e ineducata. Aveva già fatto un bel gruzzolo coi guadagni delle colazioni e a certune aveva prestato dei quattrini con l'interesse. Poco, 20, 30 lire, 50 lire, che esigeva rate mensili di 5 lire, 10, secondo la somma. Il giorno in cui dall'amministrazione scendevano le mesate, ella si tratteneva più a lungo in ufficio per esigere. Non pagarla era impossibile, tanto era il terrore che la direttrice o il direttore venissero a sapere di questo debito. E lei si avvaleva di questo terrore per esercitare un certo dominio su quelle che le dovevano dei denari. Una le faceva i cappellini, un'altra le regalava un paio di guanti, una terza le prestava il suo medaglione d'oro quando ella doveva andare a ballare e questa serva le trattava da compagne, da amiche, dava loro del tu, di che esse arrossivano e si vergognavano. Dal primo giorno della pioggia si erano manifestati i guasti di linea, il tormento autunnale e invernale dei telegrafi. Procida aveva subito inviato un telegramma di servizio dicendo che per la pioggia non vedeva più le isole di Ponza e di Ventotene. Immediatamente dopo, Massa Lubrense telegrafò che non vedeva più Capri. Le comunicazioni semaforiche erano dunque interrotte. Dopo 3 giorni la linea delle isole che parte da Pozzuoli, tocca Ischia, Forio d'Ischia, Casamicciola e Procida, un po' sottomarina, un po' aerea e poi di nuovo sottomarina, principiò a soffrire. La corrente giungeva a intervalli, si corrispondeva con grande stento. Alla sera si guastò addirittura, non rispose più nessuno. Tutta pensosa, la vice direttrice andò alla porta della sezione maschile, chiamò il capoturno e gli disse: con le isole guasta ogni comunicazione. Molti dispacci fermi? 7. Poco male, li manderemo per posta. Sotto quella pioggia continua, in quella umidità che impregnava l'aria, le strade, le persone, i vestiti, le anime, il servizio telegrafico era tutto un lavoro di pazienza. Quando entravano in servizio le ausiliarie guardavano il cielo, facevano una smorfia di sfiducia e chiamavano il corrispondente. Talvolta, sul principio, il servizio procedeva bene per 1 ora, per 2, A un certo momento i segni scomparivano e l'ausiliaria pensava: «Ci siamo, Madonna, assistimi!» Ma più spesso il guasto si dichiarava dal mattino. Il tormento si manifestava subito dal buongiorno del corrispondente che Napoli non sentiva e dal buongiorno di Napoli che il corrispondente non sentiva. Le 7 ore di servizio passavano, consumate in tentativi vani di farsi sentire, battendo forte il tasto, facendo i segni lunghi, chiari, lentissimi. «Per carità, direttrice», mormorava l'ausiliaria, «la nostra pila è troppo debole, aggiunga qualche cosa d'altro». «Avete già 30 elementi di più, che posso farvi?» rispondeva la direttrice desolata. È inutile», soggiungeva l'ausiliaria. «Otranto non mi sentirà mai». La corrente, partendo o giungendo, soffriva un morbo capriccioso e strano che la prendeva a sbalzi, che le dava tregua per 2 ore e la prostrava per una giornata, che la faceva balzare, subitamente ringagliardita, o la immergeva in una debolezza mortale. Il fluido possente che un po' di rame, un po' d'acido solforico, un po' di zinco fanno sviluppare, il fluido fortissimo che nessuno ha ancora spiegato, la grande efficienza naturale, inesplicabile e grande come il calore, come la luce, la corrente elettrica, forza, volontà, pensiero, era ammalata, attaccata nella sua forza e nella sua potenza. La torcevano per dolore certe convulsioni strane, per cui le macchine pareva dovessero spezzarsi sotto il suo impeto. Essa batteva, batteva sul metallo certi colpi duri, secchi, ripetuti, fittamente, come bussasse per aiuto, come se chiamasse al soccorso. E nell'abbattimento che susseguiva questi impeti, il coltellino della macchina aveva un tremolio indistinto. Un movimento così lieve che pareva un soffio. «Direttrice, direttrice!» diceva lamentosamente Annina Pescara. «Certamente Bologna mi sta dicendo qualche cosa, ma i segni non arrivano. Rendete sensibile la macchina!» Si smontava la macchina, si regolava più delicatamente il sistema di orologeria, si accorciava la spirale per farle sentire meglio la corrente, si accostava il coltellino a un capello della carta. La macchina, così regolata, pareva uno di quei raffinati temperamenti umani in cui la vibrazione è immediata, in cui i nervi frizzano a qualunque piccola sensazione. L'apparato era sensibile. Allora, pallidamente, qualche segno compariva. Parole spezzate, frasi monche. Pareva un delirio, fioco e indistinto di persona morente. E il guasto era dichiarato. Per non avere responsabilità. Vi è dispersione su Bologna. Pure la telegrafista restava alla sua linea, tentando ancora, tentando sempre, sperando sempre di poter corrispondere. La malattia della corrente era così bizzarra. Da un istante all'altro essa poteva guarire per un'ora o per una giornata. E con questa incertezza la telegrafista passava le sue ore in sforzi inutili, provando, riprovando, con una costanza di coraggio, con una rassegnazione tutta giovanile. Ogni tanto si udiva qualche sospiro profondo. «Che hai?» domandava la caracciolo che ci si divertiva ai guasti perché non si lavorava. «Questa linea di Catanzaro mi fa morire», rispondeva Grazia Casale. «E ogni tanto? Non si corrisponde più con Benevento? Che guasto vi è? Corrente continua». Ma il guaio maggiore erano i contatti. Per la pioggia, per le strade cattive, per la pessima manutenzione dei fili, per un uccello che vi si posava, per un caso qualunque, frequentissimo in inverno, due linee che andavano nella stessa direzione si univano e accadeva il contatto. A un tratto, mentre si parlava con Reggio, saltava fuori sulla linea Torre Annunziata e le trasmissioni si imbrogliavano. Si confondevano, i corrispondenti litigavano, le correnti si intrecciavano e la voce triste di Clemenza Shard, lieve lieve, diceva: «Non si va più, Correggio, vi è contatto con Torre Annunziata». In quel giorno, il 12 novembre, aveva cessato di piovere dalla mattina, ma il cielo era rimasto chiuso e grigio, quasi nero, alla linea dell'orizzonte, dietro la collina di San Martino, e nelle nuvole il tuono rumoreggiava sordamente, continuo. Un lampeggio folgorava azzurrino all'orizzonte. Alle 4 il capoturno, che aveva la faccia stanca e annoiata, si presentò alla porta della sezione femminile, chiamò la vice direttrice e le disse: «Non comunico più con la Sicilia». e si guardarono tutti e due, avendo sul viso l'aria preoccupata di chi subisce un guaio irreparabile. La direttrice ritornò in mezzo alle ausiliarie e comunicò la notizia: non si corrisponde più con la Sicilia. Le fanciulle si guardarono fra loro, crollando il capo. A poco l'ufficio di Napoli pareva si isolasse da tutti gli altri paesi con cui era legato. Da 4 giorni non si avevano notizie di Venezia, che dava i suoi telegrammi a Roma, Campobasso mandava i suoi telegrammi per posta, di Ancona non si sapeva nulla, con Benevento non si comunicava. Ora questo isolamento dalla Sicilia, che era il più importante, sembrava l'abbandono completo, l'isolamento assoluto. In quel giorno tutte le altre linee andavano male, non per l'umidità, ma per le scariche elettriche dell'aria che colpivano la linea e spezzavano i segni della trasmissione. «Signorine, non toccate con le dita il metallo del tasto, potreste prendere una scarica», aveva raccomandato la direttrice. Ma qualcuno ci si divertiva a quel gioco di prendere una scarica. Bastava toccare uno dei reofori o il manico del tasto, un bottoncino esterno della macchina per sentire una piccola vibrazione passante dalle dita al polso, dal polso alla nuca. «Borrelli, Borrelli, non scherzate con le scariche elettriche, potreste essere fulminata!» «Ah, sono cose che si raccontano, vice direttrice!» Maria Immacolata Concetta Sant'Aniello si segnava ogni tuono più forte e si vedevano le sue labbra muoversi come per la preghiera. Peppina De Notaris a ogni scarica elettrica si arrestava con un lieve movimento di paura. Peppina Sanna aveva una smorfia nervosa della faccia, come se tutta quell'elettricità le si scaricasse nei nervi. Sofia Magliano, cercando invano di farsi rispondere da Cosenza, parlava con Maria Morra di quella bella Adelina Marcò che nel mese di luglio aveva date le dimissioni e nel mese di agosto si era felicemente maritata con un giovanotto di Salerno, un negoziante. E l'aveva dato un addio alle fisime sentimentali per cui si attaccava al vedovo di 40 anni ed era felice adesso, come aveva scritto la direttrice. Ora, la più bella della sezione era Agnese Costa, una alta, snella, con un bel collo bianco, una nuca grossa e 2 grandi occhi grigi. Anche Emma Torelli si era fidanzata con un impiegato telegrafico e il matrimonio si doveva fare tra 5 o 6 mesi. Discorrevano di questo un po' nervosamente, eccitate dalla fatica inutile di poter avere una risposta dai corrispondenti, dalle scariche elettriche e dalle cose che dicevano. La verità sul caso della Iuliano non si era mai potuta sapere. Era mancata un tratto, ma 3 o 4 volte era stata chiamata in direzione, l'avevano vista salire dall'altro scalone col suo grande corpo slogato da uomo malfatto e anche la direttrice era stata 3 o 4 volte in direzione. Per molto tempo a conferire col direttore. Ne era venuta via con la faccia stravolta e le labbra di rosa morta anche più pallide. Una disgrazia quella della Iuliano che colpiva tutta la sezione, una disgrazia non chiara ma di cui si sentiva il malessere latente. E pensare che l'era così brutta, ma tutto un farfuglio di segni comparve sulle linee di Cosenza e di Catanzaro dove stavano Maria Morra e Sofia Magliano e poco dopo la vice direttrice annunziava: un palo è stato fulminato verso Salerno, contatto su Cosenza, Catanzaro, Reggio, Potenza e Lago Negro. 6 linee erano abbattute nello stesso tempo. Ma non tacevano. Su quelle macchine vi era un garbuglio di correnti, di trasmissioni, di colpi forti che l'elettricità dell'aria tagliava in 2. Il tuono rombava più forte in tutti i punti di contatto. Fra metallo e metallo delle macchine vi era una lieve scintilla. Gli isolatori a punte metalliche, come i denti di un pettine, anche scintillavano a riprese. In questo la direttrice entrò, vestita di nero, con un velo di crespo nero sul cappello e i guanti neri. Aveva gli occhi rossi e gonfi. Si mise a discorrere piano con la vice direttrice. Le ausiliarie la guardavano, subitamente diventate pallide a quel lutto, senza curarsi più dell'elettricità. Certo, ella ritornava di lassù, dove era andata con le altre ausiliarie. Non osavano chiamarle e chiederle che era accaduto lassù. Un lampo guizzò nel cielo livido e un forte tuono scoppiò. Un fulmine era caduto in città. Tutte le macchine scricchiolarono, a tutti i reofori, a tutti i bottoncini vi fu un fioco scintillio, negli isolatori parve un fiammeggiamento. Il capoturno si presentò alla porta della sezione maschile e gridò: «Temporale, via pericolo, linea alla terra!» La vice direttrice esitò un momento innanzi a una misura così grave che si prende rarissimamente, ma un nuovo fulmine cadde più vicino. «Linea alla terra!» comandò il capoturno. Subito dopo una quiete si allargò nell'ufficio. Napoli era isolata. I tasti, le macchine, gli isolatori parevano colti da un'improvvisa morte, la corrente era morta. E attorno alla direttrice, che veniva dal cimitero, le ausiliarie aggrappate rimpiangevano Maria Vitale, che era morta.